Italia in controluce. Buon pomeriggio da Daniele Biachessi, oggi è il 22 aprile ed è la seconda edizione di Italia in controluce. A Italia in controluce stiamo lavorando per darvi il meglio delle inchieste, dei reportage, dei servizi di approfondimento. Lunedì 25 aprile abbiamo preparato due speciali sull'anniversario della Liberazione. Alle 6.30 trasmetteremo un brano della mia orazione civile sulla Resistenza, realizzata sabato scorso a Milano, a Villa Triste, nel luogo dove la banda guidata da Pietro Koch, appunto la banda Koch, torturava e uccideva i partigiani. E alle 13.30 uno speciale di Cristina Carpinelli con interviste a Giorgio Bocca e allo storico Gianni Oliva. Poi stiamo iniziando un percorso sulle amministrative. Raffaella Calanda sta preparando un reportage su Napoli partendo dalla situazione dei rifiuti. E come accade ogni venerdì a quest'ora, cedo la linea a Piera Ceci per Scuola in Controluce. Scuola in Controluce. Il linguaggio è quello senza mezzi termini dei ragazzi. Sì, perché sono stati proprio loro i protagonisti qualche giorno fa in piazza a dire no alla mafia, che non è più una macchia solo dell'Italia del Sud, anzi. Non siamo infatti a Reggio Calabria, ma a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Massimo Brugnone, responsabile di Ammazzateci Tutti per la Lombardia. Non Reggio Calabria, però Busto Arsizio, diciamo, legata a Reggio Calabria, visto che la manifestazione che ha visto prendere parte 3.500 studenti nella nostra città nasce 4 anni fa a Reggio Calabria. Legale Italia nasce nel 2007, ricordo il giudice Antonino Scopelliti, e dopo 3 anni e più di lavoro che Ammazzateci Tutti fa all'interno delle scuole di Busto Arsizio, abbiamo deciso di riuscire a dar voce a questo lavoro costante nelle scuole e quindi scendere tutti quanti in piazza a dire no alla mafia presente anche a Busto Arsizio. Che significa per voi che vivete a Busto Arsizio rendervi conto che la mafia non è più affare, diciamo, dell'Italia del Sud, ma è anche fra le pieghe della vostra città? Rendersi conto che in realtà non è mai stato un affare soltanto del sud, visto che ormai la mafia in Lombardia è presente da oltre 20 anni. Nel 2007 io per la prima volta reggo le carte della direzione investigativa antimafia e dice: a Busto Arsizio è presente la mafia e si paga il pizzo. Quindi mi dice che a Busto Arsizio sono presenti due famiglie di Cosa Nostra. E leggo poi delle carte giudiziarie con l'indagine e il processo che inizierà proprio l'11 maggio a Milano, il processo infinito che l'Andrangheta ha colonizzato praticamente la Lombardia, e un altro processo, una costola di questo, si svolge nel tribunale di Busto Arsizio. Quanto è importante parlare di mafia nelle scuole? Seguiamo soltanto quello che è l'insegnamento del giudice Borsellino. Lui diceva: se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente mafia svanirà come un incubo. Penso che abbiamo un compito, dobbiamo staccare e dobbiamo creare una nuova cultura della legalità, dobbiamo creare lo stacco. Dobbiamo partire fin da piccoli. I nostri progetti con Ammazzateci Tutti vanno dalle scuole elementari, medie, superiori. L'età media dei partecipanti è di 15 anni e le risposte però sono di altissimo livello, perché ragazzi di 15 anni che discutono di legge, discutono di magistratura, discutono di Costituzione, così che si incomincia ad avere senso civico, senso dello Stato e senso della legalità. Un lavoro importante quello nelle scuole, dunque, per sensibilizzare i ragazzi su cos'è la mafia. Davide Borsani ha 17 anni e frequenta l'Istituto Tecnico Tosi di Busto Arsizio. Anche lui era in piazza a manifestare per la legalità. Lui, come tanti suoi amici, non si stanca a sentire parlare di mafia. Perché? Questa è una bella domanda che a volte anche io mi pongo quando faccio tutti gli incontri, comunque collaboro con Massimo. È un problema che comunque sta affliggendo anche non solo il sud, come anche il nord, anche se ancora pochi ce l'hanno chiara questa idea. E comunque penso che sia un modo in cui spendere la propria vita è molto valido, facendo del bene anche alla società. Ma che cos'è secondo te la mafia? La mafia che avete a Busto? La mafia che abbiamo a Busto è diversa di quella che c'è giù in meridione. Qua la mafia non si vede, permette anche che la gente non ci creda, mentre giù è più visibile. E più contatto con la gente, comunque è sotto gli occhi di tutti. Qua lavora in silenzio ed è difficile da trovare, anche se però c'è, come infatti ce lo dimostrano l'operazione Bad Boys e l'operazione Fire Off di 2 settimane fa. Sui vostri striscioni c'era scritto: siamo i nuovi 1000. Cosa vuol dire per te? Che siamo il cambiamento, cioè un cambiamento che deve iniziare da adesso, dal nostro presente, e che speriamo che possa contagiare più persone possibili, continuando anche sensibilizzando anche con queste manifestazioni, con nuovi incontri che possono permettere di aprire gli occhi a molta gente e che gli faccia cambiare il loro pensiero per quanto riguarda la mafia al nord. Tu sei molto impegnato su questo fronte, i tuoi compagni ti seguono in queste tue iniziative? Sì, i miei compagni mi appoggiano, cioè nel senso sono contenti di quello che faccio e a volte mi seguono magari quando ci sono qualche incontro e li porto con me cercando di sensibilizzare, che comunque è anche un po' l'obiettivo che ammazza dici tutti, quello di andare con la gente, tra le scuole dove ci sono tanti giovani, di cercare di sensibilizzarli su questo tema. E non ti stufi tu di seguire questi incontri, magari anche un po', no, a volte noiosi? No, vabbè, nel senso non si smette mai di imparare e quindi è sempre bello andare sentendo anche tanti pareri diversi, che comunque la mafia sfocia in tanti temi, no? E quindi è giusto ascoltarli tutti e farsi anche un'idea propria. Comunque è una cultura di cui bisogna essere a conoscenza, che per poi però eliminarla, questa cultura che purtroppo è la croce del nostro paese anche. Una cultura, quella mafiosa, che va combattuta anche a scuola. Ma sono più i ragazzi che chiedono che si parli di mafia o sono gli adulti che hanno capito l'importanza di questo lavoro e l'hanno portato fra i banchi di scuola? Andrea Monteduro è il preside del liceo artistico di Busto Arsizio. Ambedue le cose in realtà, nel senso che noi su questo argomento e su argomenti simili come il discorso del diritto alla cittadinanza, alla partecipazione, ci stiamo lavorando da molti anni, da 4 anni, ma non solo noi come liceo artistico, tutte le scuole superiori di Busto. Abbiamo ospitato varie persone che sono da anni impegnati su questo fronte, da Giancarlo Caselli a Gerardo Colombo, alla figlia del giudice Scopelliti e così via. Anzi, adesso stiamo facendo una corte spietata a Don Ciotti e speriamo prima o poi di ospitarla. Per cui è un lavoro che in realtà arriva da lontano. Quest'ultima scadenza è tutta merito e lavoro dei ragazzi, sono loro che ci hanno guidato, ma hanno preso spunto da proposte, da lavori che noi stiamo facendo già da qualche anno. Ecco, perché avete sentito la necessità di parlare ai vostri ragazzi di mafia? Perché a Busto Arsizio la mafia c'è e noi dobbiamo aiutare questi ragazzi a non far passare la cultura mafiosa. E lei ha trovato terreno fertile, no? Perché mi sembra che questi ragazzi abbiano risposto davvero molto bene a queste vostre sollecitazioni, a questi vostri inviti comunque a riflettere su questo fenomeno. Insomma, di solito vengono dipinti i ragazzi delle superiori come disinteressati. A Busto invece mi pare che c'è un certo impegno da parte loro. Ma non solo a Busto, il più delle volte chi definisce questi ragazzi nei modi in cui ha citato lei, non è quello che pensa di questi ragazzi, ma è quello probabilmente che vorrebbe che questi ragazzi fossero, delle persone vuote, superficiali, senza valori, bamboccioni, ma se questi ragazzi fossero così sarebbero dei perfetti sudditi, passivi consumatori. In realtà questi ragazzi vogliono essere cittadini attivi e partecipanti, hanno i loro valori, li portano avanti, li propongono, poi voglio dire nei grandi numeri l'imbecille c'è sempre, ma a questo succede anche purtroppo tra i presidi, non solo tra i ragazzi. Per fortuna questi ragazzi sono molto meglio di come qualcuno li vuole dipingere. Bisogna un po' accenderla luce, però una volta accesa splendono. Ma guardi, i nostri ragazzi, quando parlo dei nostri intendo dire non di tutte le scuole di questa città, di questo territorio, non solo fanno queste cose, ma ne fanno anche di altre propositive, molti di loro sono impegnati in lavoro di volontariato, molti di loro aiutano delle altre persone e quando vengono proposti lavori che hanno senso, stanno a scuola e ci stanno anche di domenica. Noi il 25 aprile, che è il lunedì di Pasqua, avremo 60 nostri allievi a scuola che parteciperanno ai festeggiamenti del 25 aprile per la liberazione d'Italia e hanno fatto moltissimo per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Quindi tutto sono meno che nulla facente, nulla pensante. Italia in controluce termina qui, vi ricordo, torneremo lunedì 25 aprile alle 6:30.